boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oh, lunedì, giorno di sventura. Come giorno di sventura? Facile, ma sì. Ma vabbè, ma sei tu che hai pensieri cupi come tutti i lunedì e quindi attiri i corvi. Via, vai via brutta bestia, dai. Vai via brutta bestia. Allora Kappa, iniziamo con un argomento anche un po' triste, profondo e serio. Quindi vorrei da te un po' di musica d'effetto, sì, tipo aspetta, documentario sociale. Prendo l'ukulele. Sì, qualcosa che faccia piangere, eh? Il bambino terrorista è vestito di nero. Salutati uno ad uno tutti i suoi amici e i suoi cari, si avvicina verso alcuni civili innocenti. Un bambino nel ruolo di poliziotto gli ordina di fermarsi, ma lui imperterrito si fa saltare in aria in nome della jihad. Si alza un polverone di terra, gli amichetti si fingono morti e feriti, mentre i superstiti si prendono cura di loro. Oh, è tutto per finta, Kappa. Andava bene la musica, però è bene, tutto sì. Per finta, perché questo è il gioco del martire. Ah, bello, bello. Il gioco del kamikaze, molto in voga tra i bambini pakistani. Perché lì non dicono giochiamo a mamma e papà, ma giochiamo al martire, capito? E questo ci fa riflettere sull'impatto devastante della propaganda islamista sui bambini, che tendono a imitare quello di cui parlano tutto il giorno gli adulti. Vabbè, però in Pakistan a cena in famiglia si parla di esplosivo, no? Stragi. Ciao caro, come va? Lo scotch oggi mi ha fatto male. Invece in Italia di cosa si parla, Drago? Si parla del premio. Sì, si parla di Berlusconi. E quindi i bambini italiani giocano al gioco di Berlusconi. Ma cos'è? Al Consiglio dei Ministri. Giocano a Berlusconi. Al processo breve. Cosa ma no, fanno? No, fanno la che noia. Giocano alla festa di Arcole. Ah, no? La festa di Arcole. Festa, è molto più divertente. Una volta si giocava al dottore per palpare un po' le femminucce. Adesso si gioca a Berlusconi. Per il live di Chiedo Asilo stanno arrivando molte prenotazioni, però continuate a prenotarvi, perché se non c'è posto lo aggiungiamo, sì, basta mettere qualche seggiolina, qualche banchetto ma in più. Anche in piedi. Anche in piedi, no, in piedi no, ma figurati, come fai a riempire tutto quel posto? Guarda che è grande, è grandissimo. L'asilo Stoppani H, la sede di Radio 24, è grandissimo, è grandissima, a seconda se è la sede o l'asilo Stoppani H. Vabbè, Drago, sono un po' preciso su allora, queste cose. Siate precisi voi a prenotarvi a chiedoasilo@radio24.it specificando quanti posti volete, il vostro nome. Sì, ma specifichiamo che l'ingresso è gratuito, live non sarà trasmesso in radio, quindi bisogna venire per sentire quello che viene detto. È un live, un live bisogna venire a vedere. Il live è fatto apposta per essere un live. Live is life, Ma cosa dici? Live is life. La la na na na. Era la la na na na na na na na na. Dai, ma smetti. La la la. Life is life. Na na na na na. Bambino Alberto, ma sei sempre sull'albero! E per forza! Mi sto preparando a fare la piccola vedetta lombarda nella recita dell'asilo. Ah, e quando è? È martedì 22 marzo in Viale Monterosa a Milano. E possiamo venire anche noi? Ma certo che potete venire! Anzi, portate anche dei vostri amici, Allora è una specie di festa! Io porto l'ukulele! Ma che ukulele? Piuttosto portate pane e formaggini! Vabbè, per pane e formaggini allora devi scendere giù dall'albero, eh! Eh no, io non scendo! Io no, non scendo, resto appeso quassù. Però pane e formaggino è una bella idea. Sì, ma non sull'albero. Non ho paura di volare. Sì, ma stai attento che poi cadi e ti fai male. Da lì è alto, Da qui il mondo è così piccolo. Sì, ma bambino Alberto, smettila di fare il bambino. È un bambino. Ho detto che non scendo. Occhio! No! Chiedo Asilo live con Kappa, Drago e con Fabio Calabrò nel ruolo dell'abate Stoppani. E ci sono anch'io! Bambino Alberto, stai bene? Insomma, un po' dolorante, ma... E ora, bambini, ricreazione! Oh, bambino Ariberto. Sai che c'è via Ariberto. C'è via Ariberto a Milano. E allora? Sei bambino Ariberto. Simpatia. Hai sentito dire di quel tuo coetaneo di Bergamo che è scappato dall'asilo e si è fatto un giretto per le vie della città? Certo che l'ho sentito. Quel bambino lì, per me, è il simbolo dell'ondata di voglia di libertà, di ribellione di tutti noi bambini, no? Sì. Ma non solo qui. Qui, in Tunisia. In Egitto. In Libia. Ma cosa? Anche se Libia... Libia... Ma cosa ne sai tu della Libia? Cosa c'entra? No, aspetta un attimo, Libia... No, della Libia non so niente. Appunto, dai. Comunque, quel bambino di Bergamo è il nostro idolo. Nostro di chi? Nostro, no? L'idolo di tutti noi bambini. Certo. Di tutti gli asili del mondo. Bell'idolo. Sai che per colpa sua qualcuno perderà il lavoro, magari in processo, perché insomma, dai. Vabbè, non è mica una colpa. Come no? Allora... Ci sarà qualcuno che è pagato per controllare che nessun bambino scappi via? Ma te ne non capisco. Allora, questo tizio ipotetico non ha controllato. Allora deve pagare. Il bambino ha fatto la sua parte, no? Certo, scusa Drago, chi controlla i controllori? È sempre lì, quello il problema. Il gioco delle parti, no? Ma cosa dici? Ma tu sai almeno cos'è il gioco delle parti? Vabbè, ma il gioco delle parti è... no, non lo so. Non lo sa. Però so cos'è il gioco dell'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo. Se c'è le due merendine, vaniglia e cioccolato, devi scegliere. Ti piacciono tutte e due? Il gioco dell'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo. Cioè non è che puoi stare lì a... Vado con questo, mangio con questo. E no, puoi scegliere una! Il gioco dell'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo. Chiedo, e tu sei l'asino di Buridano? Il gioco dell'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui e muore di fame. Ma hai capito? E l'asino muore di fame, l'asino, tu. Vabbè, adesso hai ballato, hai sudato, ti sei tarantolato, caro bambino Adamo ed Eva, Chi è Adamo ed Eva? Vabbè, perché? Bambino Adamo ed Eva è bellissimo, è primigenio, no? Non scadiamo nel pretestuoso! Dici? Non sai nemmeno cosa vuol dire. Vabbè, pretestuoso? Non lo so. Appunto, vedi? Ma io sono un bambino, Ma sei un bambino, e quindi? Quindi posso anche non sapere niente, no? Vabbè, dai. E nessuno può farmene una colpa. Comoda. Ma ha ragione. Ma cosa dici, È un bambino, Drago, perdere. Ma scusa, solo perché uno è un bambino ha il diritto di vivere senza pensieri per la testa come un animaletto. Ma certo, Drago. Non è vero, ma dai. Voi due. Se non smettete chiamo il bidello Gino, Anzi, Gino il bidello. Quello dorme sempre, quindi. Infatti, se io volessi scappare come il bambino di Bergamo. Potresti farlo, perché non lo fai? Vabbè, perché io comunque sono fatto in un certo modo. Certo modo non è certo il modo che alla fine io prendo e scappo, no? Capito? No. Ma come no? Dai, facile! È lingua italiana, Sì, però usata un po' così, fantasia. Poi non ho capito perché non scappi, scusa. Se dici che è facile, potresti farlo. Qui è un inferno, i finocchi cotti, prendi e vai, no? Tu lo fai facile! C'è la farmacia, no? La farmacia! Ma cosa stai dicendo la farmacia? No, allora che io volevo scappare, no? Sì. Però ho dovuto andare in farmacia per un'emergenza. Ma cosa dici? Allora mi è andato via di niente, no? Cosa stai dicendo? Ma lo sai qual è la sai qual è la verità? La verità è che hai paura. Vabbè, ma... Dai, sei un cacasotto proprio. Ma come cacasotto? Dai! Ma no! Ma che parolaccia ho detto? Cacasotto. Vabbè, che è una parolaccia? Non so, però insomma... comunque sei un cacasotto. Ma no! No. È che, allora, io tra la farmacia. Farmacia! Ma cos'è la farmacia? Seria, no? Ma per far cosa? Vabbè, quello te lo spiego magari. Siamo anche vipera. Sì, sì, vabbè, cavallette. È il corso di violino col maestro che mi appoggia l'archetto sul braccio mentre suona, no? Sì, vabbè. Cioè, cosa? Cioè, non so se. Sì. Vabbè, comunque, sì, è vero. Cioè, io non scappo perché ho paura. E quindi sei un. Un cacasotto. Ma no! Ma porca. Ma vaffan. Ma abbiamo la vita appesa ad un filo, senza altra speranza che chiedere asilo. Chiedo asilo. E ringraziamo Sandro per questa quartina. Continuate a mandarceli, stanno arrivando, sono tante. Faremo una specie di raccolta e facciamo la sigla di 2 ore e mezzo per il live del 22 marzo. Yeah! Finito? Hey. Chiedo